Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Sette le vittime in Liguria, si cercano ancora i dispersi. A Massa Carrara aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Crisi, intesa europea su tutte le misure, volano le borse. CGIL e CISL sui licenziamenti, colpiti i più deboli. Alle 15 a Coriano i funerali di Marco Simoncelli. A Pompei nessun cedimento nella villa di Diomede, ma danneggiamenti ad un dipinto. La conferma è arrivata proprio ai nostri microfoni. Una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Sono riprese prima dell'alba con la nebbia e il buio l'operazione di ricerca dei dispersi in Liguria e Toscana devastate dalla furia del maltempo. Dedicheremo l'appuntamento di oggi di Italia in Controluce proprio all'alluvione. Dunque un ampio spazio a partire dalle 13.30 con tutti gli approfondimenti. Ma noi questa edizione la apriamo con la cronaca con Andrea Ferro. Sì, buongiorno. Meno di un'ora fa, davanti a Monte Rosso, è stato recuperato un corpo. Potrebbe essere quello di Sandro Usai, il volontario di 39 anni travolto martedì dal torrente in piena mentre stava tentando di liberare un tombino. Il numero delle vittime tra le province della Spezia e di Massa sale così a 7. Quello dei dispersi resta incerto. Sicuri i tre di Vernazza, i loro corpi si cercano in mare con due motovedette e un elicottero. E a Borghetto Vara si scava tra le macerie e il fango di alcune case dove sarebbero sepolte altre persone. Ora come ora la situazione più critica è a Vernazza, che resta raggiungibile solo via mare. Non c'è luce, non c'è acqua, non c'è gas, il paese è una massa di fango e si teme di dover sgomberare altri abitanti per il rischio di nuovi smottamenti. Stamane un uomo è morto di infarto. E da Vernazza stamane è partito il sopralluogo del capo della protezione civile Franco Gabrielli. Come è stato detto nel vertice in prefettura, la priorità è quella di ripristinare le strade per fare intervenire più mezzi. La viabilità minore è stata quasi cancellata dal fango. Resta interrotta l'autostrada A12 tra Sestri Levante e La Spezia e così la ferrovia. I tempi di ripristino sono ancora incerti, dipende dai sopralluoghi su ponti, gallerie, viadotti, sopralluoghi che sono in corso. E da Massa arriva la notizia che la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte dell'uomo e della donna travolti martedì sera dall'esondazione del Magra. Ha spiegato il procuratore Aldo Giubilaro che si intende valutare le conseguenze di alcuni interventi realizzati recentemente lungo il fiume. E per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Andrea, tu parlavi proprio delle difficoltà negli spostamenti e a Monte Rosso, dove c'è la nostra Raffaella Calandra, è impossibile arrivare se non via mare. E Raffaella, buona giornata, tu sei arrivata via mare. Sì, è così, sono arrivata a Via Mare qui in questa che è la perla delle Cinque Terre, dove ho sentito dire da tutti, anzi dai più anziani soprattutto, che questa volta è stato peggio del 66 eppure dei bombardamenti del 44. Io mi trovo in questo istante in quella che era una delle stradine principali di Monte Rosso, via Roma, ora trasformata in un'unica colata di fango. Colline di detriti hanno sommerso negozi, bar, ristoranti e anche nelle chiese qui dell'Oratorio e di San Giovanni, ora vedo panche e paramenti che sono tutt'uno con la terra. Qui praticamente la terra che riempie i carruggi e che arriva fino al primo piano delle case. Le ruspe cercano di accantonare il fango mentre la gente raccoglie l'acqua del ruscello e cerca di mettere in salvo degli oggetti, il proprio necessario dalle case. Serviranno mesi per cominciare solo a riprenderci, ammette il sindaco Angelo Betta, che sta cominciando a preparare il conto dei danni. Gli ultimi turisti col battello lasciano Monte Rosso mentre i titolari degli alberghi scavano con tutti i mezzi anche d'emergenza per cercare di tirar fuori qualche oggetto, per mettere in salvo dei quadri, per mettere in salvo tutto ciò che possa essere possibile, come queste persone che abbiamo intervistato. Sentiamo. Faccio prima dire cosa è rimasto in piedi. Cioè, i muri portanti, non c'è più nessuna parete qui ai piani bassi, sono stati tutti portati via dall'acqua. È stata una cosa improvvisa, noi eravamo qua dentro, pioveva normale, siamo uscite per andare a casa e sono uscita quando sono stata lì la furia dell'acqua che è arrivata. È arrivato un fiume in piena di acqua e fango che mi ha sbattuto giù, meno male che c'era quella scaletta laggiù, dunque io solo non c'ero più. e tutti gli oggetti trascinati da questa onda di fango ora sono qui in una collinetta degli oggetti smarriti, possiamo dire, che è arrivata qui in quella che era la spiaggia, una delle spiagge più belle delle Cinque Terre. E per ora da Monterosso è tutto. Grazie Raffaella Calandra. Decine di milioni di danni ipotizzati per le zone colpite, anche se per una stima esatta ci vorrà ovviamente del tempo. Una trentina le aziende danneggiate nello spezzino, poche invece le imprese colpite in Lunigiana, dice Andrea Balestri, direttore di Confindustria Massa Carrara. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Va detto che il grosso delle attività industriali si concentra più sull'area di costa che non sulla Lunigiana, e le attività industriali che fanno riferimento alla nostra associazione sono collocate in aree che non sono state direttamente investite da questi fatti tragici. Non sono tantissime le imprese, è un'area, diciamo, a vocazione più di rurale e non proprio industriale. Il grosso che si avverte è nelle difficoltà di collegamenti, del trasporto, la logistica, e questo durerà, ecco, e questo creerà molti disagi. Chiudiamo dunque questa pagina, vi ricordo una puntata speciale di Italia in Controluce dedicata proprio all'alluvione. E noi accendiamo invece adesso i riflettori sull'Europa dopo l'accordo che è stato raggiunto nella notte sull'Italia e anche sulla Grecia. In Italia, tra l'altro, con le polemiche interne sui contenuti della lettera che ha presentato Berlusconi. Noi ci colleghiamo in diretta con Bruxelles con Beda Romano. Beda, insomma, l'Italia ne esce sicuramente vincitrice in questo caso, e la dimostrazione più eloquente arriva dalle borse: 4,51% in questo momento il FTSE MIB, ma anche a Parigi più 4,68%, a Francoforte più 4,21%. Insomma, è stato un vertice sul quale si riponevano molte speranze, ma che è stato importante. Assolutamente, il vertice ha prodotto dei risultati, li ha prodotti molto tardi nella notte, li ha prodotti intorno alle 4 del mattino dopo 10 ore di trattative. Trattative che hanno riguardato naturalmente i governi, ma anche gli istituti di credito, che hanno accettato una decurtazione del loro debito greco. L'accordo è senz'altro positivo, evidentemente le borse temevano una delusione, temevano un accordo più diluito, più annacquato, meno convincente. Detto questo, bisogna secondo me aspettare prima di giudicare l'accordo fino in fondo. Questo è certamente un accordo più ambizioso di quello del 21 luglio, ma è bene o male un accordo che va nella stessa direzione. È un accordo che si basa su diversi fattori, prima di tutto la ricapitalizzazione delle banche, poi una decurtazione del debito greco in mano alle banche e poi un potenziamento del fondo di stabilità europea, noto con l'acronimo inglese IFSF. Allora, a questo punto dobbiamo capire se questo impianto, che non è un impianto originale, è un impianto che bene o male esiste in alcuni mesi, questa volta possa essere convincente. I più ottimisti faranno notare che l'impianto è stato rafforzato nettamente, i più pessimisti diranno che questo è un impianto per certi versi vecchio e poco innovativo. Oggi le borse sono ottimiste, bisogna vedere domani come saranno. Beda, ti faccio un'ultima domanda che riguarda Frattini, che ha rilasciato un'intervista ad un quotidiano tedesco e ha detto: per l'Italia tutto bene, adesso sotto i riflettori ci sono le banche francesi. È vero? Ma l'Italia tutto bene. Io credo che sia successo qualcosa di molto delicato nelle ultime 72 ore. Credo che la Francia ha messo i riflettori sull'Italia nel vertice di domenica scorsa, lo ha fatto per vari motivi, alcuni positivi e altri probabilmente meno positivi, lo ha fatto tendenzialmente perché si è preoccupata dell'Italia e forse anche perché si è preoccupata di se stessa e voleva che i mercati avessero gli occhi puntati sull'Italia. Il risultato si è trasformato in un boomerang. In poche ore i governanti europei si sono resi conto che mettere sotto pressione l'Italia pubblicamente poteva allarmare i mercati finanziari e creare più tensioni di quanto già non ne avessimo. Risultato, il vertice di questa notte è stato positivo sull'Italia, ma io ho l'impressione che in privato le pressioni sull'Italia continueranno e saranno comunque molto molto forti nei prossimi mesi. Grazie a Beda Romano per questa analisi. Dunque Roma resta una sorvegliata, così possiamo dire, speciale, ma sul fronte interno Bossi ha detto adesso si va avanti, insomma il clima sembra positivo. Oggi intanto, all'indomani di queste novità che avete appena sentito, il capo dell'area ricerca economica della Banca d'Italia, Daniele Franco, è stato ascoltato dalle commissioni bilancio riunite di Camera e Senato. Ieri era stato il governatore Mario Draghi, ma anche oggi la Banca d'Italia torna a chiedere al governo di attuare rapidamente le misure contenute nella lettera inviata a Bruxelles. Il nuovo invito arriva da Daniele Franco. In un'audizione al Senato il responsabile dell'area ricerca di Banca Italia ha parlato anche di pensioni. Ha detto che il nostro sistema previdenziale a regime è sostenibile, ma è necessario completare il processo di riforma, rimuovendo gradualmente le disparità di trattamento che restano tra le diverse categorie di lavoratori e le diverse generazioni. Nel 2012 la pressione fiscale raggiungerà il massimo storico al 43,8%, ha ricordato poi l'alto funzionario di Palazzo Koch. In una situazione in cui la pressione fiscale è molto alta e vi è molta evasione da recuperare, la nostra sulle considerazioni di buon senso è che uno dovrebbe recuperare l'evasione e utilizzare i proventi per ridurre le aliquote fiscali, non aumentare la pressione fiscale complessiva. Nel breve periodo interventi sul fisco per risolvere i problemi di deficit possono essere comunque necessari, rileva Franco, che suggerisce la strada dell'ICI più semplice a suo giudizio di quella della patrimoniale, bocciata invece l'ipotesi di nuovi condoni perché avrebbero effetti distorsivi e non aiuterebbero a contrastare l'evasione fiscale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Torniamo alla lettera presentata da Berlusconi. Il fronte licenziamenti resta molto caldo. Perché? Perché in questa lettera viene data la possibilità alle aziende che si trovano in stato di crisi di licenziare i lavoratori, dunque anche per difficoltà economiche. Misure da incubo, dice la CGIL. Alessandra Schepisi ha chiesto un commento al segretario confederale della CGIL, Fulvio Fammoni. L'Europa chiede di superare il dualismo del mercato del lavoro e quindi di diminuire questa differenza che c'è nel precariato. Il governo risponde abbassando i diritti degli altri lavoratori e non facendo niente per i precari. Non serve a niente intervenire sul licenziamento, perché la maggioranza dei precari sta sotto le aziende sotto i 15 dipendenti, dove non c'è l'articolo 18. È una vera ossessione questa del governo, del ministro del lavoro sul tema del licenziamento. Peraltro in una situazione di crisi così grave, con una disoccupazione così alta e con aziende che stanno arrivando alla fine del loro periodo, parlare di licenziamenti oggi è una vera e propria istigazione a delinquere. Il ministro del lavoro Sacconi ha detto che il governo aprirà presto un tavolo di confronto con le parti sociali sulle nuove misure e invita i sindacati a dismettere l'abito ideologico. Il ministro Sacconi ha l'abitudine di fare le scelte e poi su quelle scelte di chiamare gli altri a confrontarsi dicendo che devono per forza dire di sì. Non è così che si fa un confronto vero con le parti sociali. Quindi non vi siederete al tavolo? No, noi partecipiamo ognun confronto, a tutti i confronti ci siamo sempre presentati, naturalmente diremo il nostro parere. Siete pronti dunque a iniziative di mobilitazione anche con CISL e UIL? Sì, ho letto le dichiarazioni delle altre organizzazioni sindacali, mi paiono importanti, mi pare che confermano il giudizio che noi stiamo dando, mi auguro che riusciremo rapidamente nei prossimi giorni insieme a stabilire un programma di iniziative comuni. A conferma di queste parole che avete appena sentito, la dichiarazione di Bonanni sui licenziamenti, siamo pronti allo sciopero. Le 13:19, dopo la lettera presentata da Berlusconi, scontro sui licenziamenti, misure da incubo, dicono i sindacati, pronti tutti insieme allo sciopero generale. 7 le vittime in Liguria per il maltempo, a Massa aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Alle 15 a Coriano i funerali di Marco Simoncelli, che Radio 24 seguirà in diretta. E poi a Pompei, smentito il nuovo crollo, danneggiamenti ad un dipinto, però dice un esperto proprio ai nostri microfoni. Le 13:20, ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosi e dalla redazione, questi i nostri titoli e noi ritorniamo anche in apertura di questa seconda edizione sul maltempo, maltempo che si sta spostando verso sud. Nel settembre 2010 in ginocchio fu la costiera amalfitana e a Trani fu uno dei centri più colpiti. Ad un anno di distanza Trani resta nel dossier ecosistema rischio di Legambiente Campania una delle località che svolgono un insufficiente lavoro di mitigazione del rischio. Un disastro che ha insegnato poco o nulla? Laura Bettini lo ha chiesto a Giancarlo Chiavazzo, responsabile scientifico di Legambiente Campania. ben pochi hanno fatto interventi efficaci, possiamo dire. Al di là, diciamo, di quelli che possono essere i luoghi comuni che riguardano la cosiddetta manutenzione, ecco, spesso non ci sono le condizioni per manutenere in modo che da evitare queste criticità da dissesto. E quindi la risposta deve essere di attivare questi sistemi di allerta e di addestramento delle comunità, quindi la formazione dei piani di emergenza, cose che in pratica possono significare che la comunità locale sa cosa fare, sa dove muoversi e talvolta basta spostarsi di pochi metri per salvare una vita umana. Oltre che ovviamente aiutare le comunità a non creare ulteriori rischi, no? Quindi con costruzioni. A creare. E quello è un capitolo che riguarda la pianificazione territoriale. Restiamo in Campania, ma ci spostiamo a Pompei, dove c'è in realtà un piccolo giallo su questo presunto crollo nella casa di Diomede. Quel crollo lì è stato smentito, però ai nostri microfoni il presidente dell'Osservatorio Patrimonio Culturale, Antonio Irlando, raggiunto da Anna Migliorati, aveva parlato di danneggiamenti ad un dipinto. Allora sentiamolo. Dopo le piogge di ieri sera, che sono state molto incessanti, il crollo c'è stato esattamente nella regione sesta, insula prima, edificio numero 4, che corrisponderebbe ad una sorta di locale con diciamo alcuni affreschi collocati su pareti molto instabili, per cui c'è stato il crollo sia della muratura che di questi affreschi, di questo intonaco decorato sulle pitture. Quindi questa volta non si tratta solo di un muretto, ma anche di pitture? Si tratta anche di pitture. In questa zona dove c'è stato questo nuovo crollo, sono previsti alcuni degli interventi finanziati dall'Europa? Sono previsti anche in questa zona, però gli interventi previsti con il piano dei 105 milioni sono interventi non sistematici, ma a pioggia, cioè nel senso che si fanno in maniera sparsa in più parti dell'area di Pompei. Noi riteniamo che bisognerebbe intervenire organicamente insula per insula. I funerali di Marco Simoncelli alle 15 a Coriano. Sono stati oltre 20.000 i giovani e meno giovani che hanno affollato la camera ardente aperta ieri. C'è stata un'apertura anche prolungata nel tempo, proprio per consentire alla tanta gente in coda di omaggiare Marco. Sono attese invece ai funerali, che lo ripetiamo cominciano alle 15, 60.000 persone, e l'invito del comune di Coriano è quello di seguire le esequie dai maxi schermi che sono sistemati sulla pista di Misano e anche fuori dalla chiesa. Su Radio 24 proprio alle 15, dalle 15 alle 16, uno speciale, e dunque tutti coloro che affolleranno i maxi schermi, saranno davanti ai maxi schermi sistemati sulla pista di Misano, saranno fuori la chiesa a Coriano, possono chiamarci per raccontarci quello che vedono, le emozioni di questa giornata, di questa storia che ci ha commosso tutti. 800 24 00 24 per intervenire allo speciale che Radio 24 dedica ai funerali di Super Sitch. Ci spostiamo ad Assisi, dove è in corso l'incontro interreligioso voluto dal Papa a 25 anni da quello promosso da Giovanni Paolo II. Nel pomeriggio il momento più toccante, con il rinnovo solenne dell'impegno per la pace. È partito alle 8:10 in punto dalla stazione Vaticana il treno che ha condotto il Papa, sorridente nella carrozza numero 1, nella città del Poverello. Con lui gli esponenti di 300 religioni nel mondo, cristiani, ebrei, musulmani, buddisti, induisti, ma anche tanti non credenti invitati ad Assisi, perché la pace è proprio affare di tutti. 25 anni fa il primo incontro di preghiera, voluto da Giovanni Paolo II. Oggi la necessità che le religioni si confrontino, collaborino, rinneghino l'uso strumentale di Dio per seminare odio e guerra è ancora più imminente, senza rischi di sincretismo. È stato questo il filo conduttore di diversi interventi, e anche Benedetto XVI ha ribadito che la religione è sempre al servizio della pace, condannandone un uso strumentale. Vediamo la religione come causa di violenza anche là dove la violenza viene esercitata da difensori di una religione contro gli altri. I rappresentanti delle religioni convenuti nel 1986 ad Assisi intendevano dire, e noi lo ripetiamo con forza e grande fermezza, questa non è la vera natura della religione. Ma c'è un altro nemico, ha messo in guardia il Papa, della pace, ed è l'assenza di Dio, che ha prodotto crudeltà e violenza senza misura. Katia Cramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo a parlare di lotta all'evasione fiscale, lo facciamo con la nostra rubrica Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Amelia, ex bidella, ha 62 anni ed è andata in pensione quando ne aveva 36. Avete sentito bene, sua figlia Cristina oggi ha proprio 36 anni e non ha ancora un lavoro vero. Amelia ha lavorato 14 anni, da 24 percepisce una pensione, il che è assolutamente legittimo. Da 24 anni però è anche la fidata badante di un'anziana signora, in nero, e questo è meno legittimo. Accade a Biella, ma potrebbe tranquillamente accadere in altre zone d'Italia, soprattutto al nord, dove secondo i dati dell'INPS sono più numerosi i baby pensionati. E sono più numerosi anche i pensionati baby che arrotondano in nero. Uno scandalo, quello delle baby pensioni, il cui responsabile ha un nome e un cognome, il democristiano Mariano Rumor, che le introdusse nel 1973. Ora si calcola che costino 9 miliardi e mezzo all'anno alle casse dello Stato, ma nessuno ha mai osato calcolare quanto lo Stato non ha mai incassato delle tasse non pagate dai pensionati baby che continuano a lavorare ma in nero, sicuramente una fetta significativa dei 100 miliardi di PIL annuo sottratti alle casse dello Stato dal lavoro irregolare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con la nostra rubrica chiudiamo questa edizione di GR24, non prima di avervi ricordato che in Italia in controluce, che andrà in onda tra poco, ci saranno tutti gli approfondimenti sull'alluvione che ha colpito così duramente la Liguria e la Toscana. Vi ricordo anche che dalle 15 alle 16 su Radio 24 ci sarà uno speciale dedicato ai funerali di Marco Simoncelli. Vi invitiamo a partecipare, a raccontare le vostre sensazioni, il vostro ricordo di Super Sitch, formulando l'800 24 00 24. Per questa edizione è tutto, grazie regia a Pietro Lacorte. La prossima edizione alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.